Allora, intanto buonasera, si sente da fuori tutto? Okay. Sì, si sente. Allora, stasera siamo qui per presentare questo disco, questo. Mi dicono di aspettare che sono bassa. Intanto vedete la copertina, questo disco. Compratelo. Si trova qua dentro, lo potete comprare. A fine dell'incontro loro firmeranno anche le copie, così. Visto bene? Sì. Allora cominciamo. Si dice anche perché essendo a Lucca non si sa. Non tra uno poi per l'altro. No. E qui devo comprare tutti. Cominciamo con una domanda abbastanza semplice, anche forse scontata. Perché hanno sempre quella faccia? Via, comincio io. Ma perché sono passati 10 anni. Ma i gatti sono rimasti gatti e nonostante le rivoluzioni e le evoluzioni, le ghigne le vedete, sono queste, sono le ghigne, ma è rimasto oltre alla ghigna, noi si dice ghigna per di il modo di pensare, il modo di raccontare le cose, che fa parte probabilmente di un modo tutto toscano, ma anche probabilmente proprio tutto gatto mezzo, ecco, perché prima si ragionava dei fossi, dei pruni, de sfranellate sott'Arno, e ora ci sa 40 anni Ma ecco, eccoci qui, insomma, siamo sempre noi. Non si sprenella più. Non si sprenella più, volevo mia di quello. Però questo disco segna anche un cambio nella vostra produzione. Prima tutto in pisano, toscano, insomma, comunque. Adesso invece un disco completamente in lingua. Come mai questa scelta? Perché si è assaggiato l'acqua potabile e si è detto, ma quell'altra suonisce. No, ma in realtà è venuto agilissimo, è venuto proprio naturale. Fa questo passaggio più che altro perché io ho scritto in italiano, lui ha scritto in italiano, ci siamo confrontati e si è detto ma qui bisognerebbe tradurre, e tradurre è triste perché quando te scrivi in vernacolo, scrivi in dialetto, in genere pensi in dialetto e quindi è difficile, è stato più naturale lasciarlo in italiano e vedere anche magari di farsi a Milano, a Torino, che non c'è mai stato problema con l'introduzione dei pezzi, però ora penso sia più semplice in questo caso. Nel presentare il disco avete detto, vi cito testualmente, che parla della voglia di uscire dalla palude di se stessi e capire cosa ci sia oltre le proprie certezze. Com'è nata questa esigenza? Probabilmente il vernacolo, quando abbiamo iniziato a raccontare le cose nostre, quelle molto più intime, parlo degli ultimi, il penultimo, il terzultimo disco, probabilmente il vernacolo ci proteggeva un po', rendendo la confessione forse anche un po' meno credibile, se devo essere sincero, ma questo non dico che rinnego o ricambierei quello che ho fatto, ma raccontando ora le cose proprio specifiche, queste sono confessioni, ragazzi, l'italiano io credo renda molta più giustizia, il vernacolo ci serviva perché in vernacolo non c'era bisogno di far giri di parole, c'era da dire delle cose e farsi capire molto velocemente e molto semplicemente. Il vernacolo serviva proprio a questo. Qui c'è da raccontare qualcosa di più complesso, probabilmente ci voleva proprio una osa, una lingua un po' più complessa, oltre che alla lingua anche la musica, gli arrangiamenti. È successo un bel casino, no? È successo. Ma si può fare un pezzo? Sì. Anzi, io direi. Sì, ma non cambieremo mai. Vai, sì. Vai, sì. Si fa un pezzo perché sennò qui. No, perché qua non ci ingabba alla CGL. Raccontando invece perlomeno si fa un po' di musica, dai. A voi, un pezzo. Che ballano il twist su una pista sgangherata, salici in piedi che ridono di una iena sconsolata, bimbi che guidano i tram su una strada non ancora calpestata, zebre che parlano male di una striscia pedonale. Con la testa tra le mani, addolorati di vederci così illogici, affannati, imbrogliati e intrappolati. Che anche cani sono stupiti e addolorati di vederci così illogici, affannati, imbrogliati e intrappolati. Fare la padrone anche in questo disco, dai, certo. Ma siamo pisani. No. È importante, ma no. Secondo voi è una lente di ingrandimento per la realtà, aiuta a vederla meglio? Ma io l'ironia senza, cioè, che poi 25 anni di Berlusconi hanno tentato anche ad ammazzare anche quella, io penso sia stato difficile, anche ora è un periodo difficile, però senza l'ironia la vedo proprio... la vita la vedo veramente difficile, perché oltretutto l'ironia innesca la mancanza di ironia innesca la mancanza di autoironia, che allora lì è proprio veramente dissoluta la faccenda. Sì, sì. Mi è garbato tanto quello che ha detto lui, ma infatti non diciamo altro, dai. Aiuta anche a capire quello che ci sta avvenendo d'intorno, quello che voi parlate in questo disco, che comunque sia è anche una fotografia della contemporaneità. Guarda, si risponde con un pezzo, potrebbe essere. Bravo. L'uomo del momento. L'uomo del momento. Potrebbe essere giusto? Sì, parecchio. Vai. Perché insomma ci sarebbe da dire un mucchio di ossa su ma quello che hai detto te. Meglio. Ma noi questo giro bisogna suonare, non c'è da fare discorsi. L'uomo del momento, mi ci tocca anche il cappello. L'uomo del momento, camicia nei fiori, occhiali grandi, barba lunga, calzini a colori. L'uomo del momento va molto piano, perché andare forte è troppo moderno. L'uomo del momento, l'uomo del momento, l'uomo del momento sei tu. L'uomo del momento, bici a scatto fisso, perché frenare con le mani è troppo moderno. L'uomo del momento, foto invecchiate per provare a dare un senso alle sue trovate. L'uomo del momento sembra un po' suo padre, come sarebbe stato senza diventare tale. L'uomo del momento sei tu. L'uomo del momento giustificato in ogni sua contraddizione dagli occhiali in voga. L'uomo del momento non sa più mangiare diventato un pane per opinioni migliori. L'uomo del momento passerà veloce come le spalline di quegli anni ottanta e senza lasciar traccia sparirà nel cielo. L'uomo del momento sei tu. Gesù. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie per davvero. Questo è un pezzo che parla del fatto che, bravo, noi si piglia parecchio per il culo le mode, però non ne siamo esenti. Alla fine noi siamo andati a vedere le scarpine laggiù, quelle d'anguilla, quelle laggiù che fanno in quel violo per andare verso piazza, dove la chiesa San Michele. Sì, San Michele. Si può dire, dal Pratesi, si può dire. Dal Pratesi. Siamo via in televisione. E alla fine anche noi, no? siamo tutti impantanati in questa cosa lì. E quindi è difficile, un po' come diceva Gaber, no? Che diceva, io non mi fa paura Berlusconi in sé, ma Berlusconi in me. E che, cioè, la faccenda è questa lì, è che è difficile essere puliti nel 2016. Bravo. Non c'è da dire. Allora si fa un altro pezzo, così lei si anche la pure. No, dai, così al volo. Così al volo. Allora, invece, come diceva lui, questo è un disco anche di confessione. Io devo dire che ho avuto una donna con cui ho fatto una figliola, poi ho sparecchiato. E nello sparecchiare mi sono reso conto di tante cose. Mi sono reso conto anche che in un amore ci sono parecchie fasi. E non per questo queste siano poi, riguardandole dopo, per forza gravi e non interessanti. Io dico che alla fine, nel mio caso, ha prevalso il buon senso e spererei quando uno sparecchia, che si lascia dalla sua donna, che insomma si riuscisse a mettere d'accordo. Questo pezzo si chiama Nora. Io sono qui da queste parti per aria maggiore. Va. Ferma, sospetto. Nora, mi piace quel cielo, dal fondo lo guardo, seduto con te. Oggi ti stringo e disarmo, e il mare è un miliardo, cosa penserà? A vederci vicini, ha paura di noi, siamo enormi, c'è troppe ironie. A vederci ha paura, questo gioco fra noi, sia più grande e profondo di lui. Nora, regalami un foglio, con scritto ti voglio, per quello che sei. Giuro, stasera m'arrangio, mi spuccio l'arancio, lo so è una mania. Per la scala ho sentito che parlavi di me, con tua madre c'è gran sintonia. Per cambiare lavoro, in quest'epoca qua, è sbagliato e per voi non si fa. Nora, mi sento un po' stanco, stasera il mio sogno è leggere un giallo. Dimmi, cos'è quel sarcasmo? Ti sembro più vecchio di 3 mesi fa. Con i soldi avanzati voleremo nel chat, che commuoverci ci aiuterà. Occuparci degli altri, vedrai, servirà a salvarci da questa realtà. Nora, hai letto quel foglio? C'è scritto rivoglio la mia vanità. Pensavo bastasse una figlia per fare famiglia, credevo di sì. Sarà bello sapere che ne parli di me, una pizza sarà un rendezvous. Un gesto, una frase, negli abiti suoi, sarà buffo scoprirci anche noi. Grazie. Grazie per davvero. Grazie. Ditemi voi. Allora. Dai, se... dai. No, no, no, mi calca, la fine. Vabbè, com'è suonare in vetrina? È strano, è strano perché vedo il labiale, ma è un casino. No, perché noi siamo abituati a sentire proprio il respiro della gente. C'è un silenzio, per esempio il teatro, che è proprio il silenzio di boh, ci fate ca. E poi invece c'è il silenzio che proprio è quello del sentimento, e lo tocchi, lo senti, lo annusi. E qui invece c'è il vetro, che si vede ma non sa annusa nulla. È difficile, però via, dai, ci si conosce dopo. Semmai, se passate di là, vi si annusa dopo. Potrebbe essere un'idea. Vabbè, e diciamo che in questo... No, non sento. Ah, già. Scusa. In questo disco ci sono le influenze della musica italiana cantautorale, quella importante. Si sente un Dalla, si sente un De Gregori, si sentono gli echi di questa Fossati. Musica. Fossati, mi suggeriscono. Qui ci ho sentito Fossati. I Fossati, dei Fossati dei fossi, e lui, le Fossati, veramente aggiornati. È una cosa che voi conoscete in questo lavoro, è venuta spontanea, è una cosa venuta inconsapevolmente o è una cosa ricercata? Senti, ci garberebbe fa un elenco quando si parla delle cose che da cui si attinge per fare un disco, oppure le cose che il pubblico sente, bisognerebbe che Checco fa sempre un elenco di tutte le cose specifiche che ci hanno in qualche modo dato il via, ci hanno ispirato. C'è Dalla, c'è De Gregori, ci sono i Goldfrapp, ci sono i Portishead, chi c'è? Diciamoli tutti, perché poi scrivano De Gregori e basta, ma altri mezzi fanno De Gregori, è un casino. Cosa si può... Guarda belli, guarda, esagerati, davvero. No, ma io per dirti, le grandi becciate di quest'anno, due anni fa, l'ho presa anche per... cioè non mi sono mai passato, però per Tom Waits, per Morricone, tantissime. Cioè alla fine boh, sono cose, però il tentativo è quello nemmeno di fare una sintesi, perché le influenze spesso sono inconsce, cioè c'è un mucchio di roba lì sotto la cenere che è tua e poi riviene fuori rispetto a quello che ti garba, rispetto a quello che senti. Però non c'è un tentativo di andare verso qualcosa, noi si vuole andare verso di noi e quindi cioè, cercare di imporre un nostro modo di vedere la cosa. Questo. Quindi in pratica prendere tutto e farlo diventare Gatti Mezzi. Sì, fino ad ora il Vernaolo ci ha protetto tanto in questo senso, ora nell'italiano... è più difficile, però è una sfida che si vuole provare a fare. In pratica avete abbandonato la coperta di Linus. Ma volendo si può anche vedere così. Si è abbandonato la coperta, calzini, diverse cose si è abbandonato. Le scarpe no, però. Ora è una coperta orta. No, e siccome... siccome si è sparecchiato la famiglia tutte e due, con questo termine molto colorito, ma secondo me che rende anche l'idea, ho sparecchiato anch'io, è difficile, non lo so, ce lo diceva Bobo Rondelli, ragazzi fate figlioli, ora si guarda quanto durate, noi si faceva sì, cosa dici Bobo, cosa dici, e poi forse ora ci pica un po' per il culo anche lui. Fatto sta che a me è successo tutto d'estate, l'estate sbagliata proprio. E parte così, senza intri né nulla. L'estate si è dimenticata di noi. Oppure l'hai fatta in te. L'estate spaccata, l'estate non pervenuta, l'estate l'estate scappata, l'estate rincoglionita, l'estate sbagliata, come faranno ad asciugarsi le ossa, i panni, la cacca, il giardino, le mani, la carne, le rane nel bagno. L'estate te la sei spaccata, oppure te la sei mangiata te. L'estate mancata, l'estate inadeguata, l'estate sbagliata, come faranno ad asciugarsi le ossa, i panni, la cacca, il giardino, le mani, la carne, le rane nel bagno. Grazie davvero. Due. Dai. Questa è la settimana del Record Store Day. Casualmente io ho un vostro vinile in mano, casualmente, così anche voi lo vedete. Record Store Day, per chi non lo sapesse, è la festa iniziata in America e poi che si è sparsa in tutto il mondo a tutela dei negozi di dischi, che viene promossa attraverso appunto l'uscita di vinili, edizioni particolari. Per voi che come lo vedete questo ritorno al vinile? Che anche oggi sui giornali c'è stata la ricerca per cui i vinili stanno rimontando. Come vedete voi questa cosa? Io la vedo in maniera positiva, cioè nella misura in cui è una cosa certa. Cioè, perché alla fine il digitale si smagnetizza, il vinile no, e poi comunque è un ritorno alla copertina e quindi alla possibilità di guardare dentro, di leggere i testi senza diventare acciai, per poi anche capì chi ha suonato, per esempio. Molto spesso nel CD, per risparmiare, c'è solamente la copertina, non si capisce chi ha suonato, chi ha registrato, insomma tutte le informazioni che non sono solo da musicofili, cioè secondo me sarebbe interessante che la gente ritornasse un po' a vedere cosa c'è dietro a un disco e poi comunque ti consente di creare una copertina reale, no? senza esagerare con le scritte come il CD, perché non si leggono, cioè è un formato bellissimo e poi comunque l'analogico spesso c'ha molte più informazioni e meno ghiaccio del digitale, quindi secondo me è una cosa molto bella. E poi l'ultima cosa, poi non dico altro, ti costringe comunque a metterti lì e ascoltare la musica e questo è una cosa che alla fine sta un po' passando, perché la musica sta diventando da ascensori, da parrucchieri, no? Cioè con tutte queste arti, ci senti altro, non senti altro. Invece qui io mi metto il disco, io c'ho una mia, c'ho la mia del mio babbo che lui sta dopo mangiato un'ora a sentire i dischi e non fa altro e si mette lì con le mani su braccioli della poltrona, chiude l'occhio e ascolta un'ora un disco, due dischi, però lui lo dedica, secondo me dedicare del tempo alla musica in maniera come, cioè dandogli proprio l'importanza che ha, potrebbe essere una conquista, dato che insomma quindi conquiste ce ne sempre meno. Sì, come proprio un rituale, una cosa tua, no? Una cosa tua che diventa tua. Io una cosa molto più pratica che ha accennato, la volevo approfondire. Io mi ricordo negli anni 90 più o meno, quando uscirono i CD, sì, che tutti si esultò. Io non ero nel coro di chi già vedeva la morte di alcuni supporti. Per me il CD era una ganzata, si sentiva questo suono che si poteva sgarganare e sentirlo sempre tondo, sempre. Poi probabilmente non ho mai avuto gli strumenti per sentire bene un vinile, questo vuol dire. Nessuno di noi si immaginava che però 10 anni, 6 anni in macchina sotto al cruscotto facesse rendesse poi inutilizzabile. E probabilmente sembrava eterno, invece ora noi non si riesce più, io ho CD e non li sento. Sì, perché il sistema ci sarebbe rimasterizzato. Sì, ma probabilmente è stato proprio il fatto che un prodotto così leggero, così pratico, poi si fa presto a tirare nel cruscotto. Io levo il CD e lo tiro nel cruscotto, è una disciplina, no? Ionica. Sì. E però ti tiri nel cruscotto, il vinile non lo puoi tirare nel cruscotto perché è una cosa che non si può tirare nel cruscotto, e questi a sono di tirarli nel cruscotto poi non si sentono più e i vinili sopravvivono. Io volevo dire questo. Bravo. La piazza è prenotata fino a mezzanotte. Io li inviterei a spendere due padrini invece, no? Venite, dai, ci venite, signori. Venite. Infatti, noi più di quattro anteprime di questo, più di quattro assaggi del disco nuovo. Qualcosa di vecchio, qualcosa di vecchio. Soprattutto perché non si sostituisce. No? Noi seppelliamo i vinili. Grazie a tutti. Grazie. Non sepolto un vinile, non mica un bis. No, non ti preoccupare. Tranquillo. Ma non ti preoccupare. La nuova volta ci si guarda di dirlo. Ci voleva un aiutino a me. Per legare un po' meglio. Pennarello c'è, è lì. Senza stare piangendo, senza stare mangiando, ci voleva un divano, un quarto, un gattino, ci voleva un divano, un grande di me. Grazie. Rimanendo sdraiati senza dover Che stava